E allora, buonasera a tutti e a tutti. Ecco, inizia una nuova puntata di Entropia Massima. E questa sera parliamo del lago di Bracciano e abbiamo subito ospiti, visto che abbiamo avuto qualche minuto di ritardo. E sentiamoci, senti Luca? Sì, mi sentiamo. Perfetto. Allora, un po' bassi, ma parlo il nostro telefono, ma vi sentiamo. Ok, perfetto. E, quindi oggi l'argomento di oggi è il lago di Bracciano e tu sei in compagnia di Alessandro Megali, che è un geologo, libero professionista, autoctono proprio del lago di Anguillara. Ok, allora, visto che già ne abbiamo parlato già l'anno scorso, già è un argomento che abbiamo affrontato, però volevamo riprendere appunto l'argomento prima dell'estate e, visti anche le novità, riparlarne perché insomma, riprendere le fila del discorso. Quindi, diciamo, se possiamo partire e fare di nuovo un piccolo cappello sulla zona dal punto di vista geologico e di che cos'è il lago di Bracciano, cosa rappresenta. Va bene, faremo un'introduzione brevissima e poi andiamo un po' più al sodo. E il lago di Bracciano, va bene, è un lago che sta a 40 km da Roma, è una depressione vulcano-tettonica, fondamentalmente la cui quota sta intorno ai 164 metri sul livello del mare. Ha una profondità massima di 160 metri e con una media di circa 89 metri di profondità, appunto. E parliamo di un volume di 5 miliardi di metri cubi, ossia 5 chilometri cubi. Il lago si trova all'interno di un insieme di comuni che sono correttamente Bracciano, Anguillara e Trevignano, cioè questi sono i tre comuni che insistono sul lago. In realtà c'è anche Roma, che ha un pezzetto di costa del lago nella porzione sud-est del lago, e tutto il territorio del lago è inserito in un parco naturale regionale istituito nel 99, che è il parco di Bracciano e Martignano. Il parco è stato istituito per la tutela di diversi habitat forestali ed acquatici. Ci sono diverse ZPS, quindi zone di protezione speciale, delle ZSC e dei siti Natura 2000. Fondamentalmente ci sono gli habitat tutelati, sono quelli delle acque basse, della vegetazione delle acque basse. All'interno del quale habitat c'è anche una specie endemica, ossia che è esclusiva del lago di Bracciano, che è l'Isoetes sabbatina. E è una pianta particolare perché esiste solo qui a Bracciano e nel corso dell'estate scorsa ha avuto qualche problema che poi magari vi racconteremo. E lascio la parola ad Alessandro per un quadro sulla geologia dell'area. Buonasera a tutti. Parliamo del lago da un punto di vista geologico e idrogeologico. Il lago, come diceva Luca precedentemente, è di origine vulcanico-tettonica. Cosa vuol dire? Che si è originato sia dai vulcani presenti nell'area, ma anche da un sistema di faglie che ha dislocato la zona, cioè quindi ribassandola di circa 200 metri e creando questa depressione che con il tempo si è riempita di acqua. L'acqua è presente sia quindi per le precipitazioni, ma anche a livello di falda più profonda. E, infatti, se parliamo del bilancio idrogeologico del bacino Sabatin, dobbiamo mettere in conto le precipitazioni, che sono quindi corrispondono alle entrate, all'acqua quindi che arriva dalla profondità, quindi dalle falde profonde, dall'evaporazione, cioè l'acqua che invece esce dal bacino, e dai prelievi che sono le captazioni, cioè quindi l'acqua che viene utilizzata per uso antropico. E è presente nel bacino sabbatino un unico emissario, cioè è presente un fiume che in realtà si origina dal lago, però da circa 400 anni è stato sbarrato con una diga artificiale, quindi in realtà è chiuso questo emissario. E sono presenti dei fossi a carattere torrentizio lungo il bacino che alimentano il lago in determinate stagioni, e alcuni invece a carattere diciamo più costante, con portate non eccessive che a sua volta alimentano il bacino. Le caratteristiche del lago è, come diceva Luca, è un lago che è profondo 165 metri, una profondità media di circa 80 metri, però nella parte diciamo sud bisogna evidenziare che la batimetria e quindi l'inclinazione del fondale è molto bassa, cioè c'è un'inclinazione che si gira intorno ai 3,5 gradi, 4 gradi, quindi questa batimetria molto bassa incide molto sull'allungamento o l'arretramento della linea di costa, cioè una variazione verticale del livello, facciamo un esempio, 30 centimetri di variazione verticale del livello corrispondono su quelle spiagge a circa 8-10 metri di allungamento. Quindi se voi immaginate 2 metri, quanta spiaggia in più si forma? Circa 70 metri, no, specifico. Ecco, questo è un dato in effetti importante, perché poi quello che si vede in realtà, che però diciamo queste quantità, questa ampiezza di spiaggia che viene scoperta, poi appunto in realtà significa un abbassamento del livello del lago di una certa entità. E quindi qual è stato poi, giusto per rinfrescare negli ultimi anni un po' gli andamenti delle oscillazioni del livello del mare, del lago, scusate, ovviamente si parla del lago di Bracciano. Guarda, allora la crisi dell'anno scorso si è inserita in un trend storico che è evidenziabile dai dati reperibili sul sito della regione Lazio, sia a livello di precipitazioni che di temperature, e vediamo che le precipitazioni nel corso degli ultimi quasi 50 anni, quindi dal 70 all'anno scorso, sono state tendenzialmente costanti, intorno ai 960 mm l'anno. E in realtà restringendo la finestra temporale a 20 anni e anche a 10 anni, in realtà sembra che le precipitazioni siano in aumento negli ultimi anni, quindi negli ultimi 20 anni siamo arrivati a medie di quasi 970, mentre negli ultimi 10 anni siamo arrivati a 1070. Quindi sembrerebbe che ci sia un incremento delle precipitazioni. In realtà da altri studi più dettagliati si è visto che c'è una distribuzione diversa nel corso dell'anno, quindi le precipitazioni si sono spostate dai mesi normalmente piovosi, che sono quelli autunnali e primaverili, a quelli estivi, per cui ultimamente si hanno più piogge nel periodo estivi, che però sono poco efficaci perché se ne vanno molto in evaporazione. Questo per parlare delle precipitazioni. Le temperature sono nettamente in aumento. Negli ultimi 50 anni è stato registrato alla stazione di Bracciano un aumento di 2,3 gradi, e invece il livello del lago addirittura abbiamo un dato quasi secolare, perché abbiamo dati dal 1921 fino all'anno scorso. C'è stato un abbassamento complessivo nell'ultimo secolo di 1,62 m, con un minimo che è stato raggiunto proprio il novembre scorso. Questo per dirvi che in linea di massima la crisi dell'anno scorso si inserisce quindi in un trend storico, tanto che ad esempio anche l'oscillazione del lago, da ricostruzioni storiche che sono state fatte da alcuni archeologi nell'area, si è visto che l'oscillazione del lago di Bracciano ha avuto un incremento a partire dal 5000 avanti Cristo fino al 1600-1700, quando ha raggiunto, quindi 400 anni fa, ha raggiunto una quota di circa 7 metri sopra il livello attuale. Dal 1600-1700 il livello del lago ha subito un abbassamento più o meno costante, ma fino al livello attuale. Per capire e per far capire al meglio, ciao Alessandro, ciao Luca, sono Paolo. Ciao Paolo. Perché appunto questi sono tutti i dati fondamentali e, come state dicendo, è un equilibrio dinamico il livello del lago ed è verso questo equilibrio, diciamo, che si tende e che, diciamo, si è andato un po' rompendo negli ultimi anni, in particolar modo l'anno scorso, e oggi siamo in una situazione in cui non si intravede una piena ripresa come succedeva prima del 2017. Questo equilibrio da che cosa è dato? Da entrate e uscite di acqua, no? Volendo semplificare. E quindi cercherei di spiegare un po' le entrate quali sono e le uscite quali sono, per poi capire appunto come, diciamo, fino a pochi anni fa, insomma, queste entrate e uscite si sono quantomeno equivalse oppure hanno subito dei trend, delle oscillazioni più o meno naturali, e invece quello che si sta registrando è che anche dovuto all'andamento, come diceva Luca, delle temperature oppure della diversa distribuzione delle precipitazioni durante l'anno, ecco, questo equilibrio rischia di rompersi con tutte le conseguenze che Luca diceva in premessa rispetto agli ecosistemi, agli habitat, alle specie vegetali e animali che ovviamente vivono in quelle zone. Allora, per quanto riguarda mi ricollego a quello che diceva Luca, il record negativo si è verificato negli ultimi 100 anni il 29 novembre 2017, cioè il lago ha raggiunto meno 198 centimetri sotto lo zero idrometrico, che lo zero idrometrico corrisponde praticamente allo spiratore dell'Arrone, cioè è come il peso forma del lago, cioè quando il lago sta in salute sta al suo zero idrometrico, e quindi dall'acqua all'Arrone, cioè l'acqua supera la diga e quindi alimenta l'Arrone e il lago si trova in salute. Nel 29 novembre il lago è andato sotto quasi 2 metri, quindi 1,98. A che cosa è legato questo abbassamento così innanzitutto repentino? Perché l'abbassamento si è verificato da maggio 2015 e questa velocità di abbassamento è stata veramente allucinante, nel senso che io monitoravo il lago e vedevo che il lago scendeva più velocemente del solito, ma questo nel 2015, quindi 2015, 2016 e primo semestre 2017 il lago aveva una velocità di abbassamento superiore a quello che avevo verificato negli anni precedenti. A che cosa è legata questa velocità di abbassamento? È legata principalmente a un eccessivo prelievo degli ultimi anni. Cioè, come dai dati forniti dalla società ACEA, la società ACEA ha sempre prelevato dal lago, ma ha sempre prelevato un quantitativo non eccessivo. Cioè, se uno va a vedere nella media annua del prelievo, è stato sempre intorno ai 700-800 litri al secondo, la media annuale, anche meno in alcuni anni. Nel 2015, per capire, questo prelievo ha superato i 1000 litri al secondo. nel 2016 idem, nel primo semestre del 2017 lo stesso, con punte che arrivavano a 1.300, 1.400, 1.500. Quindi questo eccessivo prelievo, e dall'altra parte, per ritornando Paolo al discorso del bilancio, se le precipitazioni sono rimaste quelle e l'evaporazione anche, l'unico parametro che è cambiato negli ultimi anni sono i prelievi per uso idropotabile. Quelli, anziché diminuire o comunque rimanere costanti come erano stati negli altri anni, si sono in alcuni casi anche raddoppiati questi prelievi. Questo ha fatto sì che negli ultimi 100 anni, cioè il 2017, si è verificato questo abbassamento, che è uscito fuori dalla serie storica di 300 anni, cioè questi due metri non si erano mai verificati, mai, perché l'altro valore storico, che è 1,48 m, che si era verificato circa 10 anni fa, cioè nell'estate 2008, era già un record. Però cioè il 2017 si è verificato un nuovo record, siamo andati a altri 50 centimetri sotto. Qual è la situazione attuale? La situazione attuale, la misura di questa mattina, è che il lago frente si è ripreso 51 centimetri, cioè adesso la misura attuale è 147 sotto lo zero idrometrico. Questo innalzamento di 51 centimetri è legato in parte alle precipitazioni che sono state, diciamo, nella media, ma anche al fatto che i prelievi sono stati azzerati dal 14 settembre 2017. Sono circa 8 mesi di stop delle captazioni. Quindi questi due parametri, cioè la precipitazione nella media, le captazioni ferme, hanno fatto sì che il lago si prendesse questi 51 centimetri. Paolo? Pronto? Sì, sì, sì, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Sì, no, quindi il discorso mi sembra abbastanza chiaro. È evidente che, diciamo, i prelievi diretti dal lago più ingenti vengono fatti da ACEA per l'approvvigionamento idrico della città di Roma. D'altra parte, bisogna considerare anche il fatto che dei prelievi per uso umano o irriguo vengono fatti probabilmente da pozzi, o chi lo sa anche direttamente nel lago, anche da altri. Però è evidente che, rispetto ai dati che ci ha detto Alessandro, credo che non ci sia, diciamo, termini di paragone, non c'è paragone. A livello quantitativo, tra quello che può prelevare, tra virgolette, un contadino per innaffiare un campo, piuttosto che l'emulsione da un pozzo che quindi va a pescare nella falda e che quindi in teoria può abbattere il livello del lago. Però per chiarezza bisogna anche, no, dire che... Certo, non bisogna escludere quest'altra componente, però va detto che quantificandola si arriva, si può solo stimare, perché purtroppo sappiamo qual è lo stato di censimento dei pozzi e la capacità che le autorità hanno di controllare gli emungimenti, ossia pressoché pari a zero. Quindi ci dobbiamo affidare a delle stime su quelle che sono le captazioni, e in linea di massima sono di un ordine di grandezza molto inferiore rispetto a quelli di ACEA. Però io vorrei ritornare ancora un attimo sui dati degli ultimi anni. Quello che risalta è che l'anno scorso c'è stato sicuramente, come diceva Alessandro, negli anni passati c'è stata una forte influenza delle derivazioni di ACEA, e poi andremo a vedere in che proporzioni, in che termini. Ma sicuramente c'è stato anche un'annata particolarmente arida particolare dal punto di vista delle precipitazioni, perché nel 2017 alla stazione di Bracciano sono stati registrati 600 mm di piovosità annua, su una media che dicevamo che si aggira intorno ai 950-1000, quindi fortemente più bassa. Certo. Teniamo conto che invece nel 2014 si erano avuti 1500 mm di precipitazioni. Proprio successivamente a quell'anno, all'anno 2014, nel 2015, nell'aprile 2015, il lago aveva raggiunto il suo optimum, quindi lo zero idrometrico, e da lì ha iniziato a scendere fino al novembre scorso, il minimo di cui parlava Alessandro. Ma quanto è stata la componente di acea? Intanto voglio ricordare che l'acea deriva acqua dal lago di Bracciano in forza di una concessione degli anni, dei primi anni 90, concessione tra concessa, scusatemi, a quella che era un pezzo pubblico del Comune di Roma, quindi era ancora acea pubblica, e per la derivazione di circa un metro cubo al secondo di media, per un canone annuo di 1.408.000 lire, quindi attuali 700 euro circa, non al metro cubo ma complessivamente, cioè, ossia acea paga 700 euro annui per prendere un metro cubo di media al secondo. Ci stai prendendo in giro? Ci stai prendendo in giro, immagino. No, perché significa che paga meno che se l'andasse a prendere al supermercato e svuotasse le bottiglie. Sì, no, niente, cioè, parliamo di 700 euro che versa una volta l'anno, e poi si prende 20 milioni di metri cubi in tutto quanto il corso dell'anno. Calcolando che li rivende più o meno a un euro al metro cubo, parliamo di 20 milioni di introiti per acea, a fronte di un pagamento di 700 euro. Questa è la situazione a livello proprio spicciolo dei conti della serva. Della serva, della casalinga, della concessione di acea. In questo dobbiamo dire appunto che la componente della derivazione di acea rispetto all'abbassamento, perché ovviamente ogni volta ogni quantità che acea deriva determina un abbassamento del livello del lago, in base ai dati che acea ha fornito, quindi non a stime fatte da qualcuno, da qualcun altro, no, quello che acea ha dichiarato di aver derivato negli anni 2015, 2016, 2017, fa vedere che è una parte molto rilevante rispetto all'abbassamento che si è avuto. Faccio presente che ad esempio, nel 2016 la derivazione di acea, cioè l'abbassamento dovuto alla derivazione di acea, è stato superiore all'abbassamento che è stato registrato, cioè dal lago nel 2016, perché vuol dire che ci sono state piogge significative. Nello scorso anno, nel 2017, l'abbassamento dovuto ad acea è corrisposto al 47% dell'abbassamento che si è registrato. Teniamo conto che la captazione di acea è arrivata fino a luglio, poi è stata interrotta. Quindi, per aver derivato acqua nei primi 7 mesi dell'anno, l'abbassamento dovuto ad acea è stato di 38 centimetri, a fronte di un abbassamento nell'anno solare 2017 di 82 centimetri. Okay. Ho detto un po' di numeri, spero che siano stati chiari. Sì, guarda, chiari. Facciamo una breve pausa musicale, così facciamo riposare un po' le meningi e metabolizziamo un po' i numeri, e ci lasciamo l'ultimo quarto d'ora, 20 minuti di trasmissione per affrontare anche altri temi, sempre rispetto al lago di Bracciano. Bene. Lo malo, na viaggi di babbo di vita di fuori. Banda soufe, kone yamire lankanoma. Banda telefe, yamire lankanoma. Aluma lo de ni lankanu belema. Sontendi anyamola. Aya, shiri jarabi mani. Muso yezila di anyeke muati fumfo. Ntasilva vilam. Naluye ndindi anyeke mahale kansi oku ubeke. Naluye ndingo anyeke makonga nsi oku msavapa. Lamuru barantinya kwenye muso kokadinye kwenye muso menete tiko kadine yede. Kwenye muso kokadinye kwenye muso dambe tiko kadine yede. Kwenye muso kokadine ya kokadine ya kokadine. Mosheri jarabi manyinge. Sfumo Rocky Traoré live in Paris nel 2011 e ritorniamo in voce, ritorniamo a parlare del lago di Bracciano. E ci sei Luca, Alessandro? Ci siete? Sì, ci siamo. Ci siete. Ci siamo. Sì, no, allora la questione è adesso, diciamo, abbiamo parlato passato, presente e la domanda è un po' che cosa ci aspetta per il futuro, visto che abbiamo descritto un presente e un passato non proprio roseo, e se appunto, diciamo, questa situazione ci deve vedere preoccupati anche per il prossimo inizio, prossimo nel senso a breve scadenza, inizio dell'estate e quindi della stagione che in teoria vede, diciamo, un ulteriore decremento del potenziale del livello del lago, ecco. Quindi in prospettiva voi che cosa vi aspettate stante quello che ci siamo detti finora? Allora, per il futuro ci aspettiamo sicuramente un incremento del livello di ulteriori centimetri, perché prende il lago di Bracciano ha un andamento levando l'anno scorso, però tutti gli altri anni, quindi le 100 anni di osservazione, l'andamento del lago, cioè la crescita del livello e l'abbassamento del livello sono molto costanti. Cioè, mi spiego meglio, praticamente il lago che fa? Da ottobre inizia a salire, cioè il livello sale del lago fino a fine maggio, i primi di giugno, quindi il livello sale. Da giugno fino a quindi fine settembre, inizio di ottobre, il livello scende, cioè in 100 anni di osservazioni io non ho mai visto che il lago, per dire, è salito in estate. cioè il lago scende sempre, perché c'ha queste caratteristiche. Questo è un lago del centro Italia, un lago vulcanico, quindi non risente dei ghiacciai, non risente solamente delle precipitazioni. Se le precipitazioni mancano nel periodo estivo, il lago scende. Ma anche con piogge, come diceva bene Luca, estive, le piogge estive non sono efficaci, quindi la maggior parte dell'acqua andrà via per evaporazione. Quindi quelle che andranno a alimentare la falda profonda e superficiale, quindi il bacino, sono minime. Quindi che cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo che un incremento del livello, io spero di altri 10 centimetri circa da qui ai primi di giugno, e poi un abbassamento che io spero intorno a 25-30 centimetri, ovviamente tutti fino ai primi di ottobre o fine settembre. Ovviamente questi calcoli, queste stime, è difficilissimo, infatti nessuno fino adesso si è azzardato a fare un pronostico. Perché? Perché innanzitutto questa stima risente delle precipitazioni, cioè sarà in funzione di quanta acqua cadrà nel mese di aprile, nel mese di maggio e anche, diciamo, i primi 15 giorni di giugno. E tutti questi calcoli adesso li stiamo facendo considerando le captazioni ferme, cioè io spero veramente che adesso nei prossimi giorni ci sarà il processo al Tribunale delle Acque e i comuni e il parco vincono questo ricorso, e quindi le captazioni rimangono ferme almeno per altri 2-3 anni. E voglio ribadire una cosa: il lago di Bracciano deve rimanere un bacino strategico, cioè l'acqua deve essere utilizzata per Roma, è giustissimo, però solo veramente in casi di emergenza, cioè c'è un problema al Peschiera, c'è un'interruzione dell'acquedotto, allora a quel punto si può utilizzare l'acqua del lago di Bracciano, però una tantum, non in ordinario come è stato fatto negli ultimi 2-3 anni con portate superiori a quelle che il lago poteva dare. Quello è, mi ricollego Paolo a quella cosa che mi hai detto, ma da che è dipeso? Questo è l'abbassamento così forte, 2 metri è dipeso a una programmazione, quindi una pianificazione dei prelievi non fatta, cioè non è stato proprio pianificato, cioè non hanno visto quanta acqua è entrata legata quindi alle precipitazioni, non è stato programmato. O meglio, è stato pianificato ma senza, diciamo, tener conto dello stato di salute o degli effetti che si avevano sul lago. È stato pianificato rispetto alle esigenze della città di Roma e a qualche altra piccola mancanza delle altre fonti di approvvigionamento, cioè l'aumento dei prelievi dal lago ha compensato, per esempio, queste sono, diciamo, a quanto dichiara CEA, no? Hanno dovuto compensare il fatto che l'acqua marcia era diminuito di qualche centinaio di litro secondo, l'approvvigionamento, lo stesso il Peschiera, anche altri acquedotti dei castelli, dei pozzi che sono alla base dei castelli romani, e quindi loro sono stati costretti a prelevare. Il problema appunto è una pianificazione, una strategia, sapendo insomma che i cambiamenti climatici non è che, diciamo, sono una novità del 2017, quindi, diciamo, se c'è una strategia di medio lungo termine, appunto si può, giustamente come dici te, si deve intervenire e prendere, diciamo, le misure. Però è proprio qua che ti voglio, perché praticamente nel 2015 le precipitazioni sono state nella media, eppure la quantità captata è superiore, non si era mai vista un prelievo così eccessivo. Nel 2016 le precipitazioni sono state nella media, e quindi però è stato prelevato tantissima acqua. Cioè questa cosa della crisi, della diminuzione delle portate, non è vero, nel senso che è vero solamente nel 2017, ma nel 2015 e 2016 queste riduzioni delle portate non c'erano. Però che succede? Come ha detto bene Luca, quando uno spende 740 euro all'anno per un'acqua praticamente pulita, perché il lago di Bracciano è un'acqua praticamente perfetta, pulitissima, e non conviene fare investimenti sulle perdite, come invece sono stati costretti a farle nel 2017. Perché, caro Paolo, adesso qui da Bracciano sono quasi 8 mesi che non viene prelevata l'acqua, e ti garantisco che tutte queste sorgenti non è che hanno ripreso la portata che c'avevano prima. lo sai che è successo? Hanno solo riparato le perdite, hanno recuperato circa 1190 litri riparando la rete idrica con l'abbrodo, quindi passando da un 45% di perdite a un 38%. Immagina, con 7 punti percentuali si recuperano circa 1200 litri secondo. Che era quello che veniva prelevato da Bracciano poi. Bravissimo, adesso sono 8 mesi che non prelevano più, l'acqua non si crea. Cioè, nel senso, certo, l'acqua era qui, a loro gli servivano 17.000 litri secondo. Ma infatti adesso, proprio prendendo spunto da questo, vorrei affrontare un po' l'ultimo tema, perché tu già ci hai fatto un accenno al fatto che ci dovrebbe essere la sentenza, dovrebbe essere pubblicata la sentenza del processo, insomma, del ricorso che ACEA ha fatto contro la delibera della Regione Lazio che impone lo stop ai prelievi. E io, quando ho letto la notizia, insomma, mi ha sorpreso, perché credevo che di fronte a, diciamo, un'esigenza comune, quella di tutelare un bacino così importante, anche un'azienda come ACEA facesse un passo indietro. È un po' provocatoria la cosa, no, perché poi invece nelle dichiarazioni, e non ho avuto modo di leggere il testo del ricorso, ma addirittura si arriva a dire che non può essere toccata la concessione, quindi anche il prelievo, perché la gestione di quel bacino è un asset strategico per ACEA. Ovvero, attenzione, ACEA è un'azienda quotata in borsa che non risponde al bene comune o alla tutela dell'ambiente o del lago di Bracciano, ma risponde all'andamento dei mercati. Se ci togliete un asset strategico, create un danno agli azionisti e all'indice di borsa. E questo per me è la cosa più preoccupante, perché è la logica con cui si è arrivati al disastro ambientale di adesso, appunto. Cioè, io non investo, come giustamente diceva Alessandro, per riparare le perdite che sono arrivate al 45% fino all'anno scorso, e quindi evidentemente negli anni sono aumentate, non sono diminuite, ma prelevo di più dove mi è possibile, fino a quando, non lo so che cosa succederà, esploderà appunto il caso, come è esploso l'anno scorso. Però è questa un po' la situazione in cui ci troviamo davanti, che quindi è evidente che la sentenza del Tribunale delle Acque è dirimente rispetto a questo, a meno che poi non si cambia invece la politica, proprio intervengano le istituzioni sull'azienda e dicano: guardate che comunque questa cosa non sa da fare. Guarda Paolo, intanto chiariamo che il ricorso, cioè la sentenza che ci sarà adesso a fine aprile, è relativa a un ricorso che ACEA ha presentato a febbraio, relativa a una delibera della regione del 29 dicembre, quindi proprio di fine anno, che sanciva l'obbligo per ACEA di interrompere le captazioni senza illimitatamente, quindi senza, perché nell'estate scorsa era stato imposto un blocco temporaneo, a luglio-agosto è stato imposto un blocco temporaneo, poi a dicembre la regione ha ribadito il blocco, e oltre a ribadire il blocco ha voluto che ACEA, nel caso voglia riprendere a derivare acqua, lo deve prima chiedere alla regione, e la regione deve dare il nulla osta. L'ACEA è su questo che non ha presentato ricorso, ossia è sul fatto di dover chiedere l'autorizzazione alla regione. Perché è stata messa in discussione la concessione, sostanzialmente. Esattamente, perché nella concessione si dava mandato, si dava la possibilità ad ACEA di derivare in quelle quantità previste, ma senza dover chiedere autorizzazione a nessuno. Quindi io temo che il Tribunale possa anche dare ragione all'ACEA, perché in fondo c'è un atto precedente, che è la concessione, che è un po' in contrasto con la delibera regionale. Qui, come giustamente dicevi tu, è necessario, molto probabilmente, se il Tribunale non darà una posizione a favore della regione, probabilmente è necessario che intervenga la politica e si rimetta sul tavolo la concessione e venga rinegoziata, venga per esempio previsto un canone diverso da quello attuale e magari previsto a fasce e a condizioni dello stato del lago, quindi se il lago è in piena magari il costo per la derivazione può essere inferiore, ma se il lago è in condizioni critiche il costo deve essere elevato, se non la derivazione proibita. Ma quindi ecco, temo che ci sia la necessità di far intervenire la politica per mettere le mani su una concessione che è di altri tempi proprio. E poi secondo me una cosa che abbiamo già detto forse tra le righe è il fatto che sulla base di quali dati si prendono le decisioni, perché qui ci dobbiamo sostanzialmente, a parte diciamo il monitoraggio che fa Alessandro, perché ogni volta che ci sentiamo è sempre con uno strumento in mano a misurare un qualche livello del lago, però cioè ci deve essere un monitoraggio autonomo e indipendente rispetto ai dati che fornisce l'azienda, per esempio, no, sulle captazioni, visto il lucro vero e proprio che avete descritto voi sul quanto costa la concessione e quanto invece incassa c'era dalla vendita di quell'acqua. Quindi questo credo che sia una delle basi, diciamo, per poi permettere a chi di dovere, cioè le istituzioni, la regione, il parco, anche Roma Capitale direi, perché come azionista in maggioranza di Acea potrebbe indurre un minimo di strategia aziendale diversa. Però è evidente che se non ci sono dei dati reali e veri e affidabili, come si suol dire, le chiacchiere stanno a zero. Sì, Paolo, hai toccato un tema molto importante che è quello del monitoraggio con dei strumenti, diciamo, che devono essere, diciamo, controllati da un organo, ecco, che potrebbe essere il parco o la regione. Quindi i dati del livello idrometrico, cioè del livello del lago, non li può prendere la società che preleva. Un'altra cosa, questo è per il discorso dell'altezza del livello del lago, ma anche la questione dei prelievi, no? Il contatore deve essere installato da un ente terzo e su questa su questo fronte il parco si è mosso, nel senso che a breve sarà montato un misuratore volumetrico, quindi per misurare le portate in uscita dall'acquedotto di Bracciano. Cioè, quindi verrà installato questo strumento, sono già stati stanziati i soldi da parte della regione, e che il parco metterà sull'acquedotto di proprietà Acea. Quindi questo è un passo molto importante, secondo me, fondamentale. A quel punto, sì, a quel punto si avranno i dati giornalieri dei prelievi, cioè attualmente stanno prelevando zero, ci sarà un display che in cui apparirà lo zero, se il prossimo anno, fra 10 anni, inizieranno a prelevare 300 litri secondo, ci sarà 300 sul display, però questo valore deve essere visibile a tutti, perché il lago è di tutti, quindi salvaguardarlo è importante, e come dicevamo prima, il quantitativo